Terzo anello ad alta voce. Roberto Pedicini legge lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. Traduzione di Carlo Fruttero e Franco Lucentini. Il giorno dopo si seppe che l'assassinio aveva avuto testimoni, che non c'erano dubbi sulla colpevolezza di Hyde e che la vittima era una personalità molto in vista. Non era stato solo un delitto, ma una tragica follia. E io credo fui lieto di saperlo. Fui lieto che il terrore del patibolo mi confermasse e fortificasse nei miei impulsi migliori. Jekyll era adesso il mio porto d'asilo. Se Hyde si fosse arrischiato fuori un solo istante, le mani di tutti si sarebbero levate per afferrarlo e farne giustizia. Decisi che la mia condotta futura avrebbe riscattato il passato. E posso dire in buona coscienza che la mia risoluzione portò qualche frutto. Sai anche tu con che zelo, negli ultimi mesi dell'anno scorso, io mi adoperassi per alleviare dolori e sofferenze. Sai che potei essere d'aiuto a molti, e sai che quelli furono per me giorni tranquilli, quasi felici. Né posso dire onestamente che quella vita innocente e benefica finisse per venirmi a noia. Credo anzi di averne goduto ogni giorno di più. Ma non ero riuscito a liberarmi della maledetta duplicità del mio carattere. Quando la volontà di espiazione si attenuò, la parte peggiore di me, assecondata per tanto tempo e ora così mortificata, ricominciò ad agitarsi e a reclamare. Non che pensassi a risuscitare Hyde. Quella sola idea bastava anzi a ripiombarmi nel terrore. No, fui io in quanto Jekyll, nella mia stessa persona, a giocare di nuovo con la mia coscienza. E fu come un qualsiasi peccatore clandestino che cedetti, infine, agli assalti della tentazione. Ma tutto ha un limite. La più capace delle misure finisce per colmarsi. E bastò quel breve traviamento a distruggere l'equilibrio del mio spirito. Sul momento, tuttavia, non provai allarme. La caduta mi era parsa naturale, come un ritorno ai vecchi tempi prima della mia scoperta. Era una bella, chiara mattina di gennaio, umida in terra dove la brina s'era sciolta, ma senza una nuvola in cielo. Regent's Park era pieno di invernali cinguettii e profumi già quasi primaverili. Io ero seduto al sole su una panchina e mentre l'animale in me lambiva un residuo di memorie, la mia coscienza sonnecchiava ripromettendosi penitenza, ma senza nessuna fretta di ricominciare. Dopotutto, non ero diverso dai miei simili, riflettei. Ma poi sorrisi, paragonando il mio zelo, la mia operosa buona volontà, con la pigra crudeltà della loro negligenza. Stavo appunto gloriandomi in questo pensiero quando fui assalito da atroci spasimi, accompagnati da nausea e tremito convulso. Fu una crisi così forte, anche se non durò molto, da lasciarmi quasi svenuto. Quando poi a poco mi ripresi, mi resi conto di un cambiamento nel mio modo di pensare, di una maggiore arditezza, di uno sprezzo del pericolo, di uno scioglimento da ogni obbligo. Abbassai gli occhi. Gli abiti mi pendevano informi sulle membra rattrappite. La mano che tenevo su un ginocchio era scarna e villosa. Ero di nuovo Edward Hyde. Un momento prima godevo della stima di tutti. Ero ricco e ben voluto. Una tavola apparecchiata m'aspettava a casa mia. E adesso non ero più che un proscritto, senza casa e senza rifugio. Un assassino a cui tutti davano la caccia. Buono soltanto per la forca. La mia ragione vacillò, ma non mi mancò del tutto. Ho già detto che le mie facoltà sembravano acuirsi e i miei spiriti farsi più tesi, più pronti, quando ero nella mia seconda incarnazione. E fu così che mentre Jekyll a quel punto avrebbe forse abbandonato la partita, Hyde invece seppe adeguarsi alla pericolosità del momento. Gli ingredienti per la pozione erano in un armadio della stanza sopra il laboratorio. Come arrivarci? Questo era il problema che dovevo sforzarmi di risolvere, e senza perdere un minuto di tempo. La porta sul retro l'avevo chiusa io stesso. Se avessi cercato di entrare dall'ingresso principale, i miei stessi domestici mi avrebbero consegnato al carnefice. Vidi che dovevo servirmi di qualcun altro, e pensai a Lennion. Ma anche da Lennion, come arrivarci? E come persuaderlo? Ammettendo anche che potessi sfuggire alla cattura in strada, come farmi ammettere alla sua presenza? Come avrei potuto io, visitatore sconosciuto e sgradevole, convincere l'illustre medico a rovistare lo studio del suo collega dottor Jekyll? Poi mi ricordai che della persona di Jekyll conservavo qualcosa. La scrittura. E vidi allora con chiarezza la strada da seguire. Mi aggiustai gli abiti addosso meglio che potei e chiamai una vettura di passaggio per farmi condurre a una locanda di cui ricordavo il nome, in Portland Street. Ero in panni così ridicoli, per quanto tragico fosse il destino che quei panni ricoprivano, che il vetturino non poté trattenere un sorriso di scherno. Io digrignai i denti in un accesso di furia selvaggia, e il suo sorriso svanì. Per sua fortuna, ma ancor più per la mia, perché un istante dopo l'avrei certamente tirato giù di cassetta. Alla locanda, poi, quando entrai, avevo un'aria così nera che inservienti e camerieri tremebondi non osarono scambiarsi un solo sguardo in mia presenza, ma obbedendo ossequiosamente ai miei ordini mi condussero a una saletta privata, dove mi portarono l'occorrente per scrivere. Hyde, in pericolo di vita, era una bestia che ancora non avevo imparato a conoscere. Scosso da una rabbia tremenda, in preda a furia omicida, animato solo da desideri di violenza, seppe tuttavia dominarsi e agire con astuzia. Scrisse due lettere di calcolata gravità. Una a Lennion, l'altra a Poole, e per essere sicuro che venissero riportate alla posta, ordinò di spedirle raccomandate. Restò poi tutto il giorno accanto al fuoco, rodendosi le unghie, e pranzò da solo nella saletta privata, servito da un cameriere visibilmente impaurito. A tarda sera se ne andò e prese una vettura chiusa, da cui si fece portare su e giù per le strade della città. Temendo infine che il vetturino cominciasse a sospettare di lui, continuo a dire lui, perché in verità non posso dire me. Quel figlio dell'inferno non aveva nulla di umano, era ormai fatto soltanto di odio e di paura. Congedò la carrozza e s'avventurò a piedi, tra i passanti notturni, oggetto di curiosità nel suo grottesco abbigliamento e sempre trascinato, come in una tempesta, da quelle due sole basse passioni. Camminava in fretta, biascicando tra sé, cercando le strade meno frequentate, contando i minuti che lo separavano dalla mezzanotte. Una donna, a un certo punto, gli si accostò per vendergli, credo, dei fiammiferi, e lui la mise in fuga con un mal rovescio. Quando, in casa di Lennion, tornai in me, l'orrore del mio vecchio amico dovette certo toccarmi, ma non so quanto a fondo. Quello fu solo una goccia, probabilmente, nel mare di orrore che mi sommerse mentre consideravo la situazione. Ciò che ora mi sconvolgeva non era più il terrore della forca, ma quello di ridiventare Hyde. Ascoltai quasi in sogno le parole di condanna di Lennion, e quasi in sogno tornai a casa e mi misi a letto. Ma addormentai subito, prostrato come ero, e dormii un sonno lungo e ininterrotto, anche se popolato da incubi. La mattina mi svegliai abbastanza riposato. Ero ancora scosso e indebolito, certo, e non avevo dimenticato i tremendi pericoli del giorno prima. Il pensiero del bruto che dormiva in me continuava a riempirmi di orrore. Ma ero in casa mia, disponevo degli ingredienti per la pozione e la mia gratitudine per lo scampato pericolo aveva quasi i colori della speranza. Stavo attraversando senza fretta il cortile, dopo colazione, e respiravo con piacere l'aria frizzante, quando fui preso di nuovo da quelle indescrivibili sensazioni che preludevano alla metamorfosi. Ebbi appena il tempo di rifugiarmi nella mia stanza sopra il laboratorio, prima di ritrovarmi ancora una volta nella pelle di Hyde, infiammato dai suoi furori e agghiacciato dalle sue paure. Questa volta ci volle una doppia dose per farmi tornare in me. E purtroppo, 6 ore più tardi, mentre sedevo tristemente a guardare il fuoco, gli spasimi tornarono e dovetti riprendere la pozione. In breve, da quel giorno in poi, fu solo con uno sforzo quasi atletico e solo sotto lo stimolo immediato della mistura che potei saltuariamente mantenermi nella persona di Jekyll. I brividi premonitori potevano assalirmi ad ogni ora del giorno e della notte, ma soprattutto bastava che m'addormentassi o che m'assopissi solo un momento nella mia poltrona perché al risveglio mi ritrovassi Hyde. Questa minaccia sempre incombente e l'insonnia a cui io stesso mi condannavo, oltre ogni limite umanamente sopportabile, mi ridussero presto, nella mia propria persona, a una specie di animale divorato e svuotato dalla febbre, fiaccato nel corpo come nella mente, e occupato da un solo pensiero, l'orrore di quel mio altro me stesso. Ma quando m'addormentavo, o quando l'effetto della pozione cessava, cadevo quasi senza transizione, poiché la metamorfosi in questo senso era sempre meno laboriosa, nella schiavitù di una fantasia traboccante di immagini di terrore, di un'anima ribollente di odi immotivati e di un corpo così pieno di energie vitali da sembrare incapace di contenerle. Pareva che col decrescere delle forze di Jekyll quelle di Hyde fossero aumentate, ma l'odio che li separava era ormai della stessa intensità. Per Jekyll era una questione di istinto vitale. Conosceva ormai in tutta la sua deformità l'essere col quale condivideva alcuni dei fenomeni della coscienza e col quale avrebbe condiviso la morte. Ma a parte l'orrore e la tragedia di questo legame, Hyde, con tutta la sua energia vitale, gli appariva ormai come qualcosa non solo di infernale, ma addirittura di inorganico. Questa era la cosa che gli faceva più orrore, che quella fanghiglia di pozzo sembrasse emettere grida e voci, che quella polvere amorfa gesticolasse e peccasse, che una cosa morta, una cosa informe, potesse usurpare gli uffici della vita. E ancora, che quell'insorgente mostruosità gli fosse più vicina ad una moglie, più intima di un occhio, annidata come era in lui e ingabbiata nella sua stessa carne, dove la sentiva mormorare e lottare per nascere. Hyde odiava Jekyll per tutt'altre ragioni. Il suo terrore della forca lo spingeva sempre di nuovo al temporaneo suicidio, ad abbandonare provvisoriamente la condizione di persona per rientrare nello stato subordinato di parte. ma aborriva questa necessità, aborriva l'inerzia in cui era caduto Jekyll e ricambiava l'avversione con cui si sapeva considerato. Questo spiega gli scherzi scimmieschi che Hyde prese a giocarmi, come scrivere bestemmie di mio pugno sulle pagine dei miei libri, bruciare le mie lettere o distruggere il ritratto di mio padre. Credo, anzi, che non fosse stata la paura di morire. Già da un pezzo avrebbe rovinato se stesso per coinvolgermi nella sua rovina. Ma il suo amore della vita è stupefacente. Dirò di più. Io che gelo e inorridisco al suo solo pensiero, io, tuttavia, quando rifletto all'abiezione e passione di quel suo attaccamento alla vita, e quando lo vedo tremare, sbigottito, sconvolto all'idea che io possa sopprimerlo col suicidio, finisco per provarne addirittura pietà. È inutile prolungare questa descrizione, tanto più che il tempo ormai stringe terribilmente. Basterebbe dire che nessuno ha mai sofferto tormenti simili, se non ci fosse da aggiungere che anche a questi l'abitudine ha portato, non dico sollievo, ma un'attenuazione dovuta a un certo incallimento dell'anima, a una certa acquiescenza della disperazione. E il mio castigo avrebbe potuto durare anni, se non fosse sopraggiunta una circostanza imprevista, che tra poco mi separerà per sempre dal mio proprio aspetto e dalla mia natura originaria. La mia provvista di quel sale, che non avevo mai rinnovato dai tempi del primo esperimento, ha cominciato ultimamente a scarseggiare. Quando però ho mandato ad acquistarne dell'altro e ho preparato con quello la mistura, ho ottenuto l'ebollizione e il primo cambiamento di colore, ma non il secondo. E la pozione non ha avuto più alcun effetto. Poole ti racconterà come io l'abbia mandato in giro per tutta Londra, in cerca di quel sale, ma senza risultato. Ora sono convinto che il primo quantitativo doveva essere impuro e che proprio da quell'ignota impurità dipendeva la sua efficacia. È passata circa una settimana da allora e sto terminando questo scritto grazie all'ultima dose del vecchio sale. Questa dunque, a meno di un miracolo, è l'ultima volta che Henry Jekyll può pensare i propri pensieri e vedere la propria faccia, come tristemente cambiata, nello specchio che ha davanti a sé. Né posso tardare troppo a concludere, perché si deve solo alle mie cautele e alla fortuna se questi fogli sono sfuggiti finora alla distruzione. Hyde, se la metamorfosi si producesse mentre sto ancora scrivendo, li farebbe immediatamente a pezzi. Se invece avrò avuto il tempo di metterli da parte, la sua straordinaria capacità di pensare unicamente a se stesso, la limitazione del suo interesse alle sole circostanze immediate, li salveranno, forse, dal suo scimmiesco dispetto. Ma in verità il destino che ci schiaccia entrambi ha già mutato e domato anche lui. Tra forse mezz'ora, quando incarnerò di nuovo e per sempre quell'essere odiato, so come me ne starò a piangere e tremare nella mia poltrona, o come riprenderò a camminare su e giù per questa stanza, mio ultimo rifugio su questa terra, ascoltando ogni rumore in un parossismo di paura, prestando disperatamente orecchio ad ogni suono di minaccia. Morirà sul patibolo, Hyde, o troverà all'ultimo istante il coraggio di liberarsi? Dio lo sa, ma io per me non me ne curo. Questa è l'ora della mia vera morte. Ciò che verrà poi riguarda un altro. E così, posando la penna, sigillando questa mia confessione, pongo fine alla vita dell'infelice Henry Jekyll. Thank you. Buongiorno, sono Simone Argentieri. Alla fine della storia, il cadavere, avrete sentito, non è quello del dottor Jekyll, il cinquantenne, ma resta quello del giovane Mr. Hyde. Non c'è dunque un riscatto, sia pure tardivo, come accade, per restare nel tema del doppio, ad esempio, a Dorian Gray e il suo ritratto. La trasformazione post-mortem da mostro assassino a rispettabile dottore si realizza invece nella versione cinematografica del 1932 di Mamoulian, con effetti spettacolari straordinari, soprattutto se teniamo conto dei ridotti mezzi tecnici dell'epoca. Come infatti abbiamo anticipato nella prefazione, la perfetta struttura narrativa fatta di suspense e flashback e la grande qualità evocativa e visiva del racconto ne fanno una irresistibile materia per la messa in scena. Si comincia nel 1908 con un film muto e da allora Jekyll e Hyde abitano pressoché tutti i generi cinematografici, dal melodramma all'horror, alla commedia, alla farsa, alla fantascienza. C'è la versione erotica di Borovic, quella razziale tutta in nero di Dr. Black e Mr. Hyde, e c'è perfino una versione comica con Jerry Lewis che produce e interpreta Le folli notti del dottor Jekyll. I registi che si lasciano tentare dall'impresa sono o grandissimi come Murnau o sconosciuti artigiani che sfruttano gli effetti speciali delle trasformazioni. In quanto agli attori è evidente che tutti sono deliziati dall'idea di avere la possibilità di un doppio ruolo e si cimentano sia John Barrymore che Jean-Louis Barrault, che interpreta un film di Renoir, Il testamento del mostro. Però il film più noto è certo quello di Victor Fleming del 41, che sposta sul sesso l'anima nera di Hyde. Fleming ha la felice idea di ribaltare le convenzioni e affida a Spencer Tracy, il buono di Hollywood per eccellenza, il ruolo del titolo. E poi fa interpretare la candida fidanzata di Jekyll dalla sensuale Lena Turner e la prostituta amante di Hyde alla dolce Ingrid Bergman. Ricordo anche che in Italia nel 69 abbiamo avuto una versione televisiva con Albertazzi nel ruolo del titolo e Massimo Girotti che era un impeccabile avvocato Hutterton. Evidentemente ogni epoca, ogni cultura incontra dunque la coppia Jekyll Hyde con lo spirito e le ideologie del suo tempo. Il bruto deve esprimere di volta in volta le parti censurate o non realizzate di sé. Sempre però lo sdoppiamento che all'inizio suscita esaltazione e onnipotenza ineluttabilmente scivola nell'angoscia. Perché il doppio esce dal controllo, reclama autonomia e avanza la sua pretesa di dominio sull'io del soggetto, trascinandolo alla rovina. Nella affollata processione di doppi che dura ormai da oltre un secolo, Stevenson però mantiene, a mio parere, un posto speciale. Figlio di un padre ingegnere ossessionato dal peccato, educato da una bambinaia calvinista, riesce con intelligenza ed ironia a dar vita ad una insuperata creazione dell'inquietante mistero, della duplicità inconciliabile della natura dell'uomo. In quanto all'oggi, il tema del doppio continua a circolare sotterraneo nella nostra cultura. Si parla dei sosia di Bin Laden o di Saddam, della clonazione animale, viviamo i pigri tormenti esistenziali della omologazione degli individui nella società cosiddetta globale, l'ambiguità delle comunicazioni virtuali. Ma il rischio, a parer mio, è che si passi dal fascino perturbante del doppio a una folla indifferenziata di replicanti. Concludiamo dunque lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde e vi annuncio che da domani avrete il piacere di ascoltare un'altra deliziosa e inquietante meraviglia, quella del reverendo Lewis Carroll con il suo Alice, appunto, nel Paese delle Meraviglie, tradotta e interpretata da Aldo Busi, che sicuramente ne darà una versione affascinante e originale. Saluti da Simone Argentieri. Thank you. Roberto Pedicini ha letto Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. Traduzione di Carlo Fruttero e Franco Lucentini per Edizioni Einaudi. Postfazione di Simona Argentieri. Regia di Anna Marzetti. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it